Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Addomesticato Gheddafi. Che cosa? Addomesticato? Addomesticato. Ma Gheddafi... Presidente, non si dice addomesticato. No, no, no, no. L'avevo detto a lui, gli ho detto tu sei una bestia e io ti devo addomesticare e lui aveva consentito. Perché lui era un personaggio particolarissimo, sì. Mi ha regalato di quelle cose, pensi che una volta, una volta mi ha regalato tre cammelli, padre, madre e figlio, ecco, tre cammelli, e ce l'aveva Arcore, devo cammelli. Ancora ritirarli dallo zoo di Tripoli. Comunque era un personaggio strano ma non cattivo. Ci sono tre cammelli da ritirare allo zoo di Tripoli. Se qualche volontario per favore si fa avanti per andare a fare questo viaggetto, stanno comodi, magari in barchetta. Ci vuole una barca un po' grande. Padre, madre, figlio. Tre cammelli. Poi li portiamo a Berlusconi, insomma, sono suoi, Quella gran bestia di Gheddafi gliele aveva regalati. Beh, se c'è una cosa di questa noiosissima, come noiosissime sono tutte le campagne elettorali in cui non si parla niente dei temi, cioè voi avete sentito, che ne so, qualcuno parlare di cosa vogliamo fare in Campania, in Liguria, in Veneto, in Toscana, non so, in Toscana radiamo al suolo Carrara. Ecco, avrebbero potuto proporre questo, no? Chiedo subito a Chiara Geloni. Chiara, radiamo al suolo Carrara. Povera Carrara. No, perché? Ma no, nel senso, e poi la ricostruiamo più bella, tutta di marmo. No, tutta... no, è già bellissima. No. No. Piace scrivere. Sarei contraria a questa proposta. È Chiara Geloni, la nostra Chiara Geloni. C'è una canzone dedicata anche a te. Di chi è sta canzone? I gemelli diversi. A Chiara. Ma a Chiara piace vivere, così dicono i gemelli diversi, non lo so. Sì, effettivamente. Effettivamente. No, per esempio, ecco, come dicevo, tutte, se c'è una cosa bella di tutta questa noiosissima campagna elettorale è il ritorno di Berlusconi. Oh, il ritorno di Berlusconi che ci racconta i cammelli di Gheddafi. Gheddafi era una bestia, l'ho addomesticato. Dai, su, insomma, com'è che era uno, ha detto una cosa usando la parola scopa. Però ho detto, ma non penso al bunga bunga, cioè dai, è tornato Berlusconi, è tornato, com'è, scopa nuova scopa bene, questo era, ha detto scopa nuova scopa bene, ma non è il bunga bunga. Vabbè, una battuta delle sue. Allora è venerdì, sono le 6:31 minuti, contentissimo come tutti i venerdì. C'è la Chiara Geloni, c'è anche il nostro Massimo De Manzoni, che è vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Ecco, ben svegliato. vabbè, insomma, siamo qui, siamo con Lorenzo Nespoli che mi porta anche dei fogli, non lo so, come la velina di Emilio Fede, e siamo con Peter Bescapè in regia che apre il Parlamento. Forza, apriamo il Parlamento che si chiude da 100. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Cos'è 108esima? Mi piace questo, 108esima o 108ª settimana decisiva per abolire le province, l'abolizione delle province. Allora, caro Massimo, a te piace il ritorno di Berlusconi che dice che avanziamo tre cammelli da Gheddafi? Beh, io ho avuto qualche battuta scoppiettante. Però che mi piace un termine grosso, no, non mi è piaciuto quasi niente di questa campagna elettorale. Deve essere, ma fa tutta schifo la campagna elettorale. Cioè, voi vedete che parlano appunto di qualcosa di concreto? No, se uno vuole sentire qualcosa di concreto deve andare, non so, in un comizio a Carrara. Hanno tenuto un comizio ma a Carrara? Ecco, magari, sai, sì, li hanno tenuti perché a Carrara si vota per le regionali. Certo, appunto. Adesso io, siccome un po' di campagne elettorali le ho seguite, più di questa che non ho seguito molto, a dire la verità, ma insomma poi di cose se ne parla, è che magari sì, ma non diciamo di cose che si raccontano poi nel dibattito pubblico, specialmente quando si tratta di elezioni locali, più le cose, insomma, le battute politiche, le polemiche. Sì, ma sono cose nazionali. Ho sentito Renzi dire assumiamo 2500 poliziotti. Sì, ma che vuol dire? Chi è candidato, invece, spesso, soprattutto se le elezioni sono locali, quando va in giro parla dei problemi del certo, territorio. Ma infatti tu siamo noi che non lo sappiamo, perché magari nel circuito mediatico invece ci vanno delle polemiche, effettivamente in questo caso anche. Sì, ma d'accordo, però voglio dire, io non ho sentito molto Zaia, Lamoretti o Tosi, che ne so, in Veneto, cito tre del Veneto, Massimo De Manzoni, tu li hai sentiti? Non so, ecco, per esempio, si poteva dire buttiamo giù l'arena di Verona, Massimo, ecco, questo poteva essere. Mancherebbe altro, fortuna che questo almeno abbiamo sentito. Ma no, perché no, di Verona mi volevo un po' provocare, no? Tu sei di Carrara. No, però, cioè, sì, si sono sentiti Zaia, Lamoretti e Tosi, non è che non si siano sentiti. Che vogliono buttare giù l'arena? Soprattutto Moretti e Tosi, perché Zaia ha fatto una campagna elettorale strana per certi versi, gestito il vantaggio, sì, diciamo così, che ritiene di avere sulla carta. Vediamo se poi ha avuto ragione. Si è parlato, però è vero che a livello nazionale poi la cosa è diventata, come sempre in Italia, perché anche le elezioni di Forlì in Popoli diventano un caso nazionale. Ah, Forlì in Popoli mi piace sempre. Hanno sempre questa proiezione nazionale. In questo caso qui hanno accettato tutti di dargliela, mi pare di capire, perché l'unico che si è sentito spesso è lui, quello che io definisco l'incantatore di serpenti. Quando parla io lo ascolto in silenzio, Vincenzo De Luca, lui l'uomo considerato al centro di questa disputa degli impresentabili, che oggi finalmente verranno resi noti adesso alle 13 col rullo di tamburi, ecco gli impresentabili forse, ma De Luca insiste imperterrito. Io sono per una svolta radicale nella Campania, cioè la mia ambizione è di far misurare la Campania con la Baviera, con la Renania-Vestfalia, con l'Île-de-France o con i grandi agglomerati urbani tipo Barcellona, Berlino, Londra. Qui siamo ancora alla preistoria da questo punto di vista. Cioè, ma vi rendete conto adesso? Chiara Geloni, tu sei una donna di sinistra. Dai, ha un po' quest'aura da incantatore di serpenti. Io quando parla con questa voce tutta da attore Holly impostata, cioè voglio fare la Vestfalia, dai, sì, devo dire che è anche un po' contagiato Renzi in questo caso, perché quando Renzi è andato a fare la campagna elettorale con De Luca, poi ha detto De Luca vale un punto e mezzo di PIL. Sei rimasta un po' sorpresa. Sono rimasta un po' così. Insomma, sì, effettivamente, ecco, su questo hai ragione, la campagna elettorale in Campania, diciamo che ha preso la mano un po' a tutti. Sì, effettivamente, la campagna credo che si sia distinta, ma no, non perché non abbiano parlato dei Vabbè, ma per te De Luca è presentabile o no? È presentabile o no De Luca per te? Pare che sia, come si dice, candidabile ma non eleggibile, quindi c'è un bel problema, perché no, forse tutti dicono è candidabile, eleggibile, insediabile, ho capito, ma è governabile o no? Perché appunto. Anche se, insomma, poi ho visto che ieri la Boschi è andata a sostenerlo e ha detto che non le risulta, però invece io ho letto diverse interviste, ovviamente io non sono un giurista, ma diversi giuristi che dicono. Ma intanto che bisogna prima vincere. Per Massimo De Manzoni, per te non è governabile. Si può eleggere tutto. No, non è per me, è per la legge Severino. Che sì. Poi io a mia volta posso criticare quanto voglio e l'ho fatto, ma finché è in vigore sarebbe una legge dello Stato. E se viene applicata a altri, poi deve venire applicata anche a De Luca. L'ultima pronuncia della Cassazione poi mi sembra proprio chiara e definitiva, cioè, dice che non c'è neanche una procedura necessaria per farlo decadere, decade in automatico praticamente, la Severino si applica in automatico, perché abbiamo il paradosso tutto italiano ancora una volta di una persona appunto candidabile, sì, eleggibile, ma governabile, un attimo dopo che viene eletta deve decadere. Cioè, è una roba che non che poi manco si può dire governabile, governante, governantabile, insediabile, insediabile, come è una roba che non sta in piedi, ma è evidente che non sta in piedi. Vabbè, invece abbiamo... noi riusciamo a far stare in piedi tutto, per cui sì, c'è anche questa cosa. Sì. Per esempio, siamo riusciti a creare questa nuova categoria degli impresentabili. Oggi il Fatto Quotidiano persiste e continua, pubblica altri 12 impresentabili, ma secondo loro, cioè non è che loro ha messo. Beh, ma giustamente, è arbitraria la lista della Bindi, tanto quella del Fatto. Ah, quindi il Fatto dice questo mi sta simpatico. Che possiamo stilare noi qui. Cioè, lo so, per esempio, uno è calvo, allora no nel senso con la barba è impresentabile. Vabbè, insomma, no, ecco, questi impresentabili, detto che se li fanno sapere oggi è l'ultimo giorno, prima che li facciano sapere lunedì, che sarebbe un po' poco utilizzabile come questione, ma secondo te, Chiara Geloni, li vogliamo sapere questi impresentabili secondo l'antimafia? Oggi forse alle 13 diranno, forse sono 25 in tutto, si stanno allargando, no? come un blob questi impresentabili. Lo vogliamo sapere? Vogliamo sapere. Cosa facciamo? Ci tappiamo le orecchie? No, non lo so, cioè dobbiamo saperli, cioè, è una roba strana, nuova. Dobbiamo saperli, dobbiamo soprattutto poi chi deve votare, io no perché vivo in una regione dove non si vota, ma insomma, chi deve votare sa che non è che va a fare un giochino di società, ma va a scegliere dei consiglieri regionali e vorrei dire anche dei potenziali senatori, sì, perché non è detto che... anzi, prima della fine di questa legislatura regionale dovrebbe essere approvata la riforma che fa sì che il nuovo Senato sarà formato da consiglieri regionali, quindi da queste persone. E quando si va a votare uno, noi italiani a volte pensiamo di essere più furbi, pensiamo di andare a votare dando segnali, sì, facendo capire. No, uno va a votare, dà il voto, poi chi prende più voti risulta eletto, quindi... Poi quando uno se la prende con la cattiva politica, qualche volta deve anche ricordarsi che, ecco, per esempio alle regionali si può scegliere, si può dare la preferenza, è per quello che dicono, a qualcuno, che dicono i nomi. Da qualcun altro. È per quello. Io penso che ci siano tutti gli elementi per chi ha avuto una campagna elettorale sotto casa, ha letto i giornali e sui per giornali giudicare. Beh, ma uno cose, mica sa se uno, ma uno non quello sa che se... dice l'antimafia che ha applicato le sue regole. Ma però uno non sa se è rinviata a giudizio, cioè una roba strana e nuova. No, nel senso che uno non sa se un candidato, se uno va a dice mi piace quel candidato, non è che sai la sua fedina penale, non è che... Sì, dopo due mesi di campagna elettorale. No, scusate, vabbè, se uno non legge i giornali, per dire, se uno non è che Massimo, comunque, che c'è. Poi possono anche sbagliare i giudici a rinviare a giudizio qualcuno che poi. Però tu vuoi saperlo, Però uno cerca di informarsi prima di dare. Vabbè, Massimo, tu che dici? Sì, ma non è neanche questo il criterio per cui con cui sceglie l'antimafia. È un criterio totalmente arbitrario, perché per esempio la Paita è indagata, sì, e non è nella lista degli impresentabili. Beh, per il Fatto sì. Ha tutto il problema di cui abbiamo parlato adesso, deriva dal fatto che è condannato, ma non è nella lista degli impresentabili, in cui ci sono delle persone che invece sono state assolte o prescritte, sì, o assolte in primo grado, ma imprescindibile giudizio della signora Bindi e della sua commissione, ieri sono impresentabili e altri no. È una cosa assolutamente, guarda, in realtà non ha nessuna base giuridica, ma in realtà Massimo, però il procuratore nazionale antimafia, io lo cito tutti i giorni, l'abbiamo avuto quattro giorni fa, una settimana fa, ha detto il discrimine per il codice di autoregolamentazione dei partiti è il rinvio a giudizio. giudizio. Cioè i partiti hanno firmato un codice di autoregolamentazione in cui si impegnano, in caso di rinvio a giudizio, di considerare una persona non candidabile. Poi ognuno fa quello che vuole, per carità, però esatto, in teoria, ognuno in teoria... fa quello che vuole, tanto è vero che De Luca è condannato, quindi non è infatti, che è rinviato a giudizio, infatti, ma non rientra nell'elenco dell'antimafia. Ma infatti in cui... la questione allora di cosa stiamo parlando? Quello dell'antimafia è un'azione politica, non ha nessuna base giuridica, non si capisce quali sono i criteri, sì, non se ne sente la necessità. Ma oggi lo scopriremo. Oggi ma, non si, è un'azione demenziale. Cioè, diranno questi criteri. Però io devo parlare di questa cosa, perché dai, è inutile negarlo. Ne parlano tutti di questo fatto di cronaca, noi ne parleremo anche alle 8:15. Bando ai buonismi, ma bando anche ai razzismi. Però guardate, oggi la cosa migliore la scrive una persona insospettabile per me, e cioè Michele Serra, uno che potete immaginare sempre fa parte della sinistra, così molto vellutata, dei salotti di Fabio Fazio. Però dice, e sto parlando della vicenda di Roma, dell'incidente dei Rom che sono ricercati per aver ammazzato una filippina e ferito altre persone, scrive Michele Serra: la cosa peggiore, o meglio il modo migliore per aiutare Salvini, è fare come ha fatto il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, che in una dichiarazione pubblica in pratica ha fatto finta che non è importante dire che sono Rom quelli alla guida. Perché, scrive Michele Serra, negare che parecchi Rom delinquono per vivere e sono molto refrattari all'integrazione è sciocco e controproducente. Nessuna buona politica può nascere dal rifiuto della realtà. Allora, io vi voglio, magari anzi lo facciamo dopo il traffico, voglio far parlare di questa cosa, questo fatto. Intanto sentite come Casadio, che è un rappresentante dei Rom, definisce Salvini su questa vicenda. Vabbè, Hitler è morto, in Italia vogliono risuscitarlo. Dobbiamo ricordare che l'Italia ha... Cioè Salvini sarebbe Hitler risorto, secondo lei? Ma diciamo, non è che lui è risorto, ha risuscitato ancora lo spirito di Hitler in Italia, ecco. Salvini come Hitler, dice questo rappresentante di Roma. Dopo il traffico, E ora Milan, ma non saffogo, saffogo! Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta 24 Mattino. Ragazzi, siete spaziali. Speriamo che Milan, quando andrà in pensione, muoia il giorno dopo, così lo Stato risparmia, così lo Stato avrà corrisposto una pensione che senz'altro corrisponde ai contributi versati. Ma che discorso del cazzo è? Ma se uno campa 100 anni, che è colpa sua? Togliamo i vitalizi, togliamo questa porcata a tutti quei politici che stanno lì a mangiare e a essere ladri, eppure si arrabbiano quando lì si smaschera tutta l'ambaradam. Filastrocca elettorale. L'innominato disse all'impresentabile che l'uomo invisibile lo voterà. La Chiara Geloni non capisce niente, non c'è niente da fare, cioè io... è comunista e il problema è quello, da volte il cervello non riesce e non c'è niente da fare. Caro Milan, che te pozzino via fuoco, senti, di all'amico tuo Meazza che fa tanto lo spiritoso, digli che Gerico lo conosco, ma digli che stia attento, che se il prossimo anno le trombe del Gerico se ne vanno ancora, per l'Indri non c'è più speranza. Andrà in Serie B, Diglielo. Speriamo. Speriamo. L'Inter in Serie B non sarebbe male. Sei comunista, che ha ragione. Il problema è... Sono democristiana da generazioni. Non peggio. So come mai devo essere scambiata per... Peggio, insomma, è peggio. Una condanna. No? Era meglio comunista, devo dire. Che era meglio comunista. Era meglio comunista. No, vabbè, comunque dai, allora parliamo di questa cosa, senza infingimenti. Io, è vero, non ho mai visto titoli come quello del Messaggero oggi, il padre copre il pirata Rom. Quando il pirata è italiano non ho mai visto un titolo di prima pagina sul pirata italiano, no? Però allora, Massimo, cosa fai? Vuoi iniziare tu? Cioè, dobbiamo far finta. Ma no, erano Rom, come potrebbero essere italiani, oppure dire no, erano Rom, perché poi questo scatena ovviamente reazioni mica male anche tra gli abitanti. Beh, intanto non è la prima volta che succede con appunto dei Rom, per cui anche lì. Sì, ma quanti italiani? Quanti italiani pirati della strada ci sono ogni anno? Sì, no? Sì, no, pirati della strada italiani ci sono, però percentualmente forse oggi pubblichiamo una piccola tabella, è una cosa abbastanza impressionante, dato il numero relativo. Ma cioè, perché, come scrive finalmente anche Michele Serra, come si è deciso a dire anche Celentano, perché sì, i Rom hanno una media, un tasso di delinquenza molto superiore a qualsiasi altra etnia, se vogliamo chiamarla così, che calpisti sono italiani. I numeri sono della polizia, cioè se parli con qualsiasi operatore della polizia. Percentuale razziale della polizia? Ma dai, no, sì, ma se parli dove c'è un insediamento Rom aumenta il tasso di delinquenza. Ah, questo è un altro discorso. Perché di solito l'insediamento Rom, di questo stiamo parlando, no, sai, cos'è? Scusa, gli italiani che approfittano della presenza dei Rom per andare a rubare nelle case. Vogliamo spacciare questa nuova verità. No, ma questo però è interessante, cioè al di là dei numeri, Chiara Geloni, Michele Serra ha scritto quello che ho detto. Adriano Celentano oggi sul suo blog ha detto: "Io comincio a pensare a Salvini", testuale. Proprio su questa cosa. Allora, non c'è, come dire, dall'altra parte no al razzismo, ma non c'è stato fin troppo buonismo, cioè qualcuno che dice iniziamo a dire le cose come stanno, prendiamo atto della realtà. Allora, se iniziamo a dire le cose come stanno, io dico questo, io capisco tutto, capisco Michele Serra, capisco la tragedia che è avvenuta, bisogna essere anche conseguenti con quello che si dice però, cioè allora noi decidiamo che vogliamo fare questi politici di destra che ieri facevano i tweet con la foto del lenzuolo sull'asfalto e con scritto mai più Marino, la sinistra, eccetera. Beh, come lì, se quell'incidente fosse colpa della sinistra. Voglio sapere cosa vogliono fare. Facciamo una politica che ritiriamo la patente a tutti i Rom? Facciamo una politica per cui se uno è Rom è un aggravante, sta in galera di ma più? Prendiamoci la responsabilità di quello che diciamo, dovrebbe la politica che fare adesso, senza tirare in ballo Hitler, c'è un'etnia che è più colpevole di altre. Che percentualmente delinque di più in base al numero di quanti sono, guarda che lo dice la polizia, cioè non è che è ovvio che un insediamento Rom, un insediamento di nomadi, a parte che anche qui c'è molta confusione, sì. Ecco, bisognerebbe anche capire cosa si intende, perché però diciamo che ci può essere un'incidenza di alcuni tipi di reati legati al modo nel quale e di quello è, cioè non è che si è detto niente di più. I reati vanno perseguiti, io non sto mica dicendo che se uno è Rom deve andare libero anche se ruba in casa mia o in casa tua. Ma è un reato come vivono, porca miseria, è un reato... I campi abusivi, cioè non è, per una questione di sicurezza loro, voglio dire. Facciamo dei campi non abusivi verso la delinquenza. Ma io mi chiedo questo, e ieri ce lo chiedevamo in redazione, noi abbiamo la nostra Elisabetta Fusconi che è svizzera, e gli ho detto, e ci siamo discussi, abbiamo discusso su questo, ma perché in Svizzera non esistono i campi nome? E lei mi ha detto, ma perché in Svizzera, ieri è successo in un paesino, ma raccontato che c'era un barbone, un clochard, che dormiva in un bancomat dentro. È arrivata subito la polizia, era una questione di degrado pubblico e lo hanno allontanato. Bravo. Magari non era neanche Rom, no? No, certo, sarà stato svizzero, eccetera. Cioè, non esiste. Dice, perché non esiste un campo nomadi? Scusami, dice, perché cosa vuol dire lo hanno? Guarda che in Svizzera esisterà la Caritas, gli avranno detto vai qui, vai là, c'è chi ti assiste, eccetera. Mi stai dicendo che bisogna potenziare il welfare, ma in questi casi, cioè, il campi nomadi, dice, non ci sono in Svizzera, perché se uno si ferma dopo 5 minuti, arriva la polizia e dice, scusa, cosa state facendo qua? Via! circolare, cioè non si creano neanche le condizioni perché uno... Le persone ci sono su un territorio, esistono. Se tu le sgombri da una parte, vanno da un'altra. E infatti, vedi che in Svizzera, vedi che in Svizzera non ci stanno? Vedi che in Svizzera non ci stanno? Di Massimo, che devo chiudere. No, ecco, velocissimo, dovremmo finirla di essere razzisti e di considerare i Rom o gli zingari, come sarebbe meglio dire, dovremmo considerarli esattamente come gli altri. Se io faccio quello che fanno loro, finisco in galera. Se io mando i miei figli piccoli per le strade a rubare, vengono a prendermi, a prendere me e mi mettono in gazza. Quindi noi dovremmo cominciare a... Se io faccio insediamenti abusivi, mi vengono a contestare l'insediamento abusivo. Dovremmo finire di essere l'abusivismo in Italia viene contestato poco. Ma guarda un po', sennò io sono contenta che la gente dorme per strada, ma guarda che bisogna sentirsene dire di quelle. No, ma non è questo, però dico, c'è un po' effettivamente un atteggiamento da un certo punto di vista sicuramente aggressivo e razzista, dall'altra troppo protettivo. Ecco, siamo sempre un po' così per steccati a ragionare. Comunque ne parleremo dalle 8:15. Adesso mi spiace dover concludere così, ma tranquillizziamo, Carrara è in piedi, è assolutamente in piedi, così come l'Arena di Verona, nessuno vuole abbatterla, era una battuta mia e va bene. Allora ringrazio Chiara Geloni e Massimo De Manzoni e alla prossima. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. Dopo l'ennesima impresa di Alberto Contador, sempre più dominatore di questo giro, la carovana rosa comincia a pedalare oggi verso le Alpi. Tappa lunga, lunghissima, in un giro ormai le battute conclusive. I corridori sentono la fatica e oggi la sentiranno ancora di più in questa 19ª tappa che da Gavrellona a Toce porterà la carovana rosa su fine in cima a Cervinia. 236 km a 3 giorni dalla fine, con quasi 4.000 km già nelle gambe e 4.800 metri di dislivello da affrontare solo in questa tappa. Ieri sul traguardo di Verbania gli applausi sono stati tutti per loro due: Philippe Gilbert, vincitore solitario della sua seconda frazione in questo giro, e Alberto Contador, che ha nuovamente guadagnato oltre un minuto sia su Landa che su Fabio Aru. Oggi tappa lunghissima, dai contenuti tecnici elevati, terreno ideale per fare del male, ma non è detto che anche oggi sia ancora una volta Contador a mettere tutti in un angolo. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Gravellona Toce. Voci dal giro in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente, vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. 7:18 minuti in questo istante, cari ascoltatori, è venerdì, forza, animo che è venerdì e per molti di voi è l'ultimo giorno di lavoro della settimana e quindi ottimismo. Allora, oggi parleremo di questa vicenda di Roma, l'incidente incredibile con i due Rom ancora ricercati, una è stata arrestata. Incidente in cui ha perso la vita una filippina, vari feriti e le polemiche politiche. Avremo ospite Diana Pavlovic, che è Rom, è responsabile della fondazione Rom Sinti Insieme. Avremo ospite anche un rappresentante di quel comitato di quartiere, di zona, che ieri ha improvvisato una fiaccolata a Roma, anche per dire basta a questa convivenza difficile con i Rom. Ne parleremo dalle 8:15, come parleremo con il sindaco di Cuneo, nonché presidente della provincia di Cuneo, per quella incredibile storia che raccontava ieri la stampa di un segretario provinciale che la provincia nuova di Cuneo non voleva per risparmiare, e allora il ministero gliel'ha imposto da Roma, 180.000 euro da pagare con una dirigente che viene spedita lì, imposta dall'alto. Evviva, evviva la burocrazia, evviva la spending review. Dai, andiamo a leggere i giornali. In questo Venerdì 29 di maggio, non trovavo la data, io con i numeri sono pessimo con le date, potremmo essere per me al 12 di giugno, è la stessa cosa. Siamo a venerdì 29 maggio, il Sole 24 Ore apre sulla relazione del presidente dell'Assemblea di Confindustria Squinzi, ieri, l'industria è la chiave della svolta, questo è il titolo di prima pagina, ma poi i giornali si dedicano ad aperture diversificate, il Corriere della Sera ancora sul calcio. Caso FIFA, Blatter è sotto assedio. Repubblica invece sempre più lunga la lista degli impresentabili. Boschi difende De Luca. Il Fatto Quotidiano, Renzi e Paita, 140 milioni per l'ospedale elettorale. Mentre per il giornale, l'era di Renzi, porcate a gogo. La Stampa, Renzi sul lavoro non si crea parlando nei programmi TV. Libero invece, Renzi non difendere i papponi, è la vicenda sempre dei vitalizi. Sul calcio anche Avvenire, è scontro mondiale per il regno del calcio. Mentre il Manifesto mette la foto di Renzi, Marchionne e Elkan, il titolo è Affinità elettive. Il Messaggero invece, la notizia a cui voglio partire, è il Messaggero mette in prima pagina, ovviamente è avvenuta a Roma questa tragedia, il padre copre il pirata rom. Ora, quando i pirati sono italiani, i pirati della strada ce ne sono tanti, effettivamente non conquistano mai il titolo di prima pagina, e questa è una prima considerazione da fare. Ma insomma, e poi il padre copre il pirata rom, messo così in prima pagina sul Messaggero, titolo di prima pagina, e questa è proprio la discussione che tra poco vedremo anche coinvolge Michele Serra, che fa un interessante intervento su Repubblica nella sua amaca, proprio a parlare del fatto di mettere in rilievo il fatto che il pirata e i protagonisti di questa vicenda, protagonisti in negativo, siano rom. Ma andiamo con ordine, prima la cronaca: sono ricercati due minorenni mentre è stata presa una delle tre persone a bordo. La ragazza è stata presa subito dopo la tragedia. Cosa è successo? È successo che il padre della persona che la polizia sta ricercando, 17enne, è andato in TV, è andato da Paolo Del Debbio, dalla vostra parte, a dire: guardate che sono stato io, ero ubriaco, facevo festa come fanno i rom, ho bevuto nei vari bar, mi hanno ritirato la patente, io sono d'altronde un ubriaco, e quindi quando ho visto la polizia sono fuggito. Ma la polizia non crede a questo, pare una versione raccontata e letta sui giornali per coprire in realtà il figlio. Eccolo qua, incidente mortale, caccia a due ragazzi, Rinaldo Frignani, pagina 18 del Corriere della Sera. Il padre, Batu, ha cercato fino all'ultimo di difenderlo addossandosi ogni colpa, la polizia non gli ha creduto e lo ha rilasciato, ma lo stesso non ha fatto con la giovanissima moglie di Anthony, il 16enne rom bosniaco ricercato da mercoledì sera in tutti i campi nomadi della capitale, ma anche del centro Italia e del Lazio, per l'incidente in via Mattia Battistini. Maddalena, 17 anni, si trova già nel carcere minorile di Casal del Marmo, accusata di concorso in omicidio volontario, lesioni gravissime, omissione di soccorso. Il padre invece dice: guidavo io, lo giuro, ero ubriaco, mio figlio non c'era nemmeno. Ma ripeto, non hanno creduto. Tra l'altro Libero è molto duro a dire: vanno in TV, ci ammazzano e ci sfottono in diretta. Il killer è ancora latitante e suo padre va a mentire in TV dicendo: noi facciamo festa così, bevendo. Ovviamente tutti i giornali parlano del rapporto con la comunità italiana, con le altre comunità e la comunità rom, rapporto complicato. Infatti a questo proposito vado a quello che scrive Michele Serra sulla maca oggi di Repubblica, e non te l'aspetti da uno come Michele Serra, che come ho detto prima viene considerato magari abbastanza della sinistra, radical chic, molto paludata, salottiera alla Fabio Fazio, tanto per intenderci. Ma sentite cosa scrive sulla maca di Repubblica oggi Michele Serra, pagina 32. Il modo migliore per aiutare Salvini a speculare sull'insicurezza sociale è fare come ha fatto ieri il vice sindaco di Roma Luigi Nieri, che del tutto in buona fede, ma del tutto inverosimilmente, ha trattato come un trascurabile dettaglio l'essere rom, il ladro d'auto in fuga che ha ucciso una passante ferendone altri tre. Si capisce che l'intenzione del vice sindaco era evitare speculazioni razziste, ma non è negando l'evidenza di una questione sociale annosa e importante, quella appunto della difficile integrazione dei Rom, che si fanno passi in avanti. Negando quell'evidenza si rischia, al contrario, di dare l'idea di una puerile sottovalutazione del problema, che esiste. E non è solamente un fantasma, anche se le componenti fantasmatiche, tipo gli zingari rapiscono i bambini, ci sono e come. È una profonda ferita sociale che va gestita nell'interesse di tutti, dei Rom italiani, dei Rom non italiani, degli italiani non Rom, chiamandola per nome e poi distinguendo radicalmente un atteggiamento civile, inclusivo, ragionevole dalla paranoia fascistoide. Scolarizzare, includere, appoggiare il faticosissimo e spesso incompreso lavoro di assistenti sociali, insegnanti, amministratori, non è la stessa cosa che invocare le ruspe o berciare che gli zingari sono tutti ladri, ma negare che parecchi Rom delinquono per vivere e sono molto refrattari all'integrazione è sciocco e controproducente. Nessuna buona politica può nascere dal rifiuto della realtà. Così Michele Serra. E pensate un po', vi aspettereste mai da Adriano Celentano? Ecco, lo sto per leggere, ve lo dico. Adriano Celentano torna. Sul suo blog Il Mondo di Adriano ha pubblicato questo messaggio che oggi ritrovate su tutti i giornali, anche coi titoli Celentano molla la sinistra e sta con Salvini addirittura. Beh, c'è questa frase, eccolo qua, dal blog di Celentano. Ciao Grillo Renzi, mentre voi ve la battete sul tavolo dei voti, sapete che lui ogni tanto mette delle maiuscole, nel tavolo dei voti, nel frattempo a Roma c'è un'auto che sfreccia a 180 e con noncuranza travolge 9 passanti, trascinandosi per 50 metri una giovane donna che poi muore. 8 i feriti in modo grave. Ma voi, così concentrati nella lotta che arriva primo, vi dimenticate di parlare del problema non più importante ma vitale, che è la certezza della pena. Perché la gente dovrebbe consumare di più se ha paura a uscire di casa? E conclude poi dicendo: io sto cominciando a pensare a Salvini, puntini puntini. Così firmato Adriano Celentano. Ne parliamo alle 8:15. Mi mancava Celentano, devo andare a leggere da un po'. Oh, intanto a Roma che succede? È successa anche una rissa in Campidoglio. Circola una foto che ho postato sul mio profilo Twitter Alino Milan, potete seguirmi, di un dito rotto. È il dito rotto di Alessandro Onorato, consigliere comunale. Si discuteva di multiservice, si discuteva insomma di questioni da consiglio comunale e Gianluca Peciola di Sede, Alessandro Onorato della lista Marchini sono arrivati più che alle mani alle sedie, nel senso che Onorato dice: sono stato aggredito, ho denunciato Peciola. Circola questa foto del mignolo fratturato, serve operazione per raddrizzarlo. Queste cose non devono accadere. Un testimone dice: Peciola di Sel, vedendo che Onorato stava facendo il giro del tavolo con intenzioni bellicose, ha sollevato una delle pesanti poltrone della sala delle bandiere, quelle antiche e pesantissime, l'ha scagliata addosso al capogruppo della lista Marchini. Peciola poi ha sbattuto la nuca sul tavolo, cadendo perché sbilanciato per lo sforzo fatto. Immaginate che alza una sedia da, non so, 30 kg, la lancia su Onorato, gli spacca il mignolo e poi cade per lo sforzo battendo la nuca. Scene da consiglio comunale a Roma, a Roma. Allora, ma siamo all'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, ma anche sorridere, sorridere, sì, perché guardate, è Ernesto Galli della Loggia, uno storico, corsivista, editorialista del Corriere della Sera, che si produce però in quest'articolo a pagina 28 del Corriere della Sera. È una circolare, giura, giura, e Galli della Loggia dice: giuro che sono pronto a fornire in privato a chi avesse intenzione l'indicazione del nome e cognome del dirigente scolastico che ha firmato la seguente circolare. Due punti, aperte virgolette. Oggetto: circolazione circolari. Sono state presentate alcune rimostranze da parte di genitori dell'alberghiero e dei loro rappresentanza, lascia stare la sintassi, riguarda la mancata circolazione di alcune circolari. Si raccomanda di far circolare per le classi agli studenti tutti tutte le circolari e di farle ricircolare per le classi uscite prima. Si raccomando di mantenere un flusso continuo di circolazione e ricircolazione delle circolari, anche con l'ausilio attivo e fattivo all'Istituto Alberghiero degli Studenti di Accoglienza Turistica. Giuro, Galli della Loggia dice: fornisco in privato l'indicazione del nome e cognome del dirigente che ha redatto e firmato questo testo ufficiale di una scuola della Repubblica Italiana nel quale gli stupri sintattico-grammaticali gareggiano con la surreale demenzialità dell'enunciato con effetto degno del migliore Totò. E come cittadino della suddetta sgrammaticata Repubblica avanzo 3 domande. Primo, il ministro dell'istruzione ha la possibilità di intervenire a conoscenza che un loro dipendente è capace di scrivere un testo simile? 2. Se si hanno il potere, per esempio, di iniziare all'istante un procedimento che porti in tempi ragionevoli all'allontanamento dal suo incarico di chi ha scritto l'obbrobrio di qui sopra? 3. Che razza di buona scuola ci si deve aspettare da un'autonomia degli istituti scolastici invocata e decantata che poi può consegnare il destino di anche solo uno di essi nelle mani di uno scervellato semi-analfabeta come l'autore dello scritto in questione? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. This is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Oh, e questo è dedicato al nostro amico Angelino, al nostro amico agricoltore di Terni, Angiolino, che ci dice che parliamo troppo inglese. Vedi, vabbè. Tra l'altro poi Angelino ancora ci ha chiamato e poi la facciamo sentire a Mauro Meazza, perché ha un altro messaggio per lui. Comunque, allora, ci siamo. Oggi alle 13 la commissione antimafia si riunisce in ufficio di presidenza e dovrebbe, almeno i giornali raccontano col condizionale, rendere nota la lista degli impresentabili, una telenovela davvero anche un po' stucchevole che arriva però all'ultimo atto e Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia, dovrebbe leggere i nomi degli impresentabili, che però sono finiti sul Fatto Quotidiano, secondo loro è una lista di impresentabili. Oggi il Fatto Quotidiano insiste, ne presenta altri 12. Chi sono? Soprattutto sono quelli che sono finiti in vecchie inchieste dei vecchi consigli regionali per le spese pazze, no? Sapete che in tutte le regioni ci sono inchieste di questo tipo. E allora ecco qua, pagina 4, liste sporche, un elenco infinito. Ecco qui, il Fatto pubblica altri 12. Non so, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Francesco Bruzzone, Matteo Rosso, Matteo Rossi, sono due diversi, questo in Liguria, Marco Melgrati, ma ancora Enzo Marangoni, che è finito nelle spese pazze delle Marche ed è nostalgico di Benito Mussolini, per questo, per il Fatto, è impresentabile, ed altri ancora. Li potete trovare a pagina 4 del Fatto. Secondo loro gli impresentabili sono costoro. In realtà i nomi dovrebbero arrivare oggi. Antimafia, cresce la lista, oltre 20 gli impresentabili. Oggi gli annunci definitivi, così il titolo di Repubblica, pagina 6. Carmelo Lo Papa scrive: gli ultimi 15 nomi della discordia, anche quelli trasversali, tutti in campagna. Oggi la lista definitiva degli impresentabili sarà resa pubblica dal presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. Ma le anticipazioni, secondo Repubblica, sono: Antonio Scalzone, rinviato a giudizio per reati associativi, che aveva già annunciato il ritiro dalla competizione; Tommaso Barbato, indagato per voto di scambio; Alberico Gambino, accusato di violenza privata e concorso esterno in associazione mafiosa; Marco Nonno, che ha una condanna per devastazione legata alla lotta antidiscariche. Forse si parla anche di Enrico Maria Natale, che si difende in un'intervista sul Giorno, lui di Casal di Principe, dice: qui io pago solo il fatto che mi ha tirato in ballo Saviano. Tutta colpa di Roberto Saviano, che mi ha messo in mezzo, ma io neppure lo conosco, io sono incensurato. Si difende così, intervistato da Nino Femiani sul Giorno. Anzi, se Saviano accettasse un pubblico confronto, io sarei prontissimo a farlo e a chiarire. Sì, ma sarà perché, caro Enrico Maria Natale, suo padre Mario è stato coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, è stato arrestato anche 2 volte. Sì, ma ne è uscito pulito, risponde Natale. Anzi, con le scuse e il risarcimento dello Stato per ingiusta detenzione. Ci hanno anche restituito i beni sequestrati. La verità è che sono una persona chiacchierata solo perché sono nato a Casal di Principe. È un pregiudizio, io sono del tutto pulito come mio padre e mio fratello. Qui ci sono le migliori aziende d'Italia, le migliori aziende edili, ma quando dicono che sono di Casale viene chiusa loro la porta in faccia. Sui casalesi che penso che siano dei perdenti, hanno distrutto il nostro paese, ma non posso pagare la colpa di essere nato a Casal di Principe. Insomma, anche il Corriere racconta del muro contro muro sugli impresentabili. Oggi Rosy Bindi diffonderà la lista dell'antimafia e staremo a vedere. C'è anche tutta la questione di De Luca. Ieri il ministro Boschi è andato a sostenere De Luca, lo ha definito eleggibile e candidabile, o meglio candidabile e eleggibile. De Luca dice basta questa storia della Severino, mentre Caldoro, lo sfidante, uno degli sfidanti di Forza Italia, dice, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 11, se vincesse De Luca si tornerebbe a votare, questa è la prospettiva, avremmo buttato 24 milioni di euro, resteremmo immobili per almeno 3 mesi, che sono delicatissimi e pieni di scadenze decisive. E poi si lamenta Caldoro, dice, la cosa peggiore di questa campagna elettorale è che non si è potuto parlare di temi, ma solo di De Luca, dei suoi impresentabili e dell'ingovernabilità che provocherebbe. Questa è l'opinione di Caldoro. Comunque, il premier Matteo Renzi, secondo il Corriere, scommette sul 6-1 come vittoria nelle regionali, però in realtà il Corriere della Sera fa sapere che c'è anche il Movimento 5 Stelle, si parla della possibilità di vittoria in Liguria, forse addirittura anche in Campania, approfittando di tutta questa questione anche degli impresentabili. Ecco, sugli impresentabili c'è una frase che viene attribuita a Renzi. Renzi ai suoi avrebbe detto, così scrive il Corriere della Sera, pagina 13, queste uscite propagandistiche contro di noi potrebbero nuocerci. Così avrebbe definito l'azione della Commissione Antimafia e di Rosy Bindi. Uscite propagandistiche. Staremo a vedere. Interessante l'articolo di pagina 10 di Repubblica che riguarda le nomine che Matteo Renzi è pronto a fare subito dopo le elezioni regionali. Sono nomine importanti, dalla Cassa Depositi e Prestiti alla RAI alla Consulta, ecco le 10 nomine sul tavolo del governo. Goffredo De Marchis e Liana Milella raccontano tutto a pagina 10 e 11 di Repubblica. Quali sono i 10 posti chiave? Intanto la RAI. Luigi Gubitosi, direttore generale, ha finito il mandato, dovrebbe trasferirsi alle Ferrovie dello Stato, dove c'è in questo momento Elia, Michele Mario Elia, che però non è molto gradito a Renzi, così almeno scrive Repubblica. Poi l'altro candidato anche alle Ferrovie, Massimo Tononi, anche questo non è molto gradito a Renzi. E poi la Cassa Depositi e Prestiti, dove Franco Bassanini dopo 7 anni potrebbe lasciare, con la compensazione di diventare il candidato numero 1 del PD per la Corte Costituzionale e per la guida alla Cassa Depositi e Prestiti, scrive Repubblica. Renzi pensa a Marco Morelli, Claudio Costamagna, Gaetano Micciche o Andrea Munari, uno di questi 4 candidati. Poi c'è la RAI, che ha 3 candidati in pista per sostituire Gubitosi al direttore generale, e sono, secondo Repubblica, Andrea Scrosati, vicepresidente di Sky Italia, Marinella Soldi, amministratore di Discovery Channel, oppure un identikit interno, Giancarlo Leone, oggi direttore di Rai 1. E ancora la Consulta, insomma, poltrone, poltrone, poltrone. C'è anche Mauro Meazza che, se volete, si candida. Tu una poltrona qualsiasi, comincia a prendere una poltrona, Mauro, io poi uno strapuntino e avanti così. Ma possiamo, buongiorno Alessandro, possiamo anche fare il contrario, potresti candidarti tu e poi... No, vedi, io mando avanti te in queste cose, ti vedo pronto alla pugna, alla battaglia. Allora. Va bene, allora volentieri. Sono cose di politica, tu ti sei maneggione, ti sai muovere. Vabbè, attenzione che scatta la querela. Non vorrei dover chiamare subito l'avvocato appena finiamo questa, sì, questa nostra conversazione. Vabbè. Scusami, ho un annuncio importante da fare. Non so, sì, se tu devi mandare altre richieste da parte di coltivatori diretti o presunti tali o sedicenti tali. Non lo so. Va bene, dopo. Allora, Angelino ha richiamato. Ma diamo intanto delle indicazioni importanti. Habemus prorogam o prorogazione, secondo che edizione tu preferisci. C'è la proroga per unico, sta arrivando, non è ancora ufficiale, ma sta arrivando. Abbiamo tutti i dettagli nelle pagine di norme e tributi, anzi nella prima delle pagine di norme e tributi, e vorrei precisare, si va al 6 luglio, si andrà al 6 luglio, manca l'atto ufficiale, per quelli soggetti di studi di settore, i minimi e i forfettari. Non è importante, caro Alessandro, che tu capisca, neanche che io capisca, l'importante è che lo sappiano i nostri amici contribuenti e professionisti che aiutano i contribuenti. È importante, habemus prorogam. Poi, per la gioia di Angelino, non se n'è fatto niente sul made in. Non è che Angelino avrà portato male con la sua battaglia per l'inglese. Non lo so, innanzitutto, però lì il problema è più tedesco, a dire la verità, perché francesi, italiani e spagnoli sono abbastanza uniti nel richiedere norme più severe sulla tracciabilità, ma come dire, lo riferiamo oggi nelle pagine di imprese e territori, che niente fa, e questo non è inglese, puoi tradurre se vuoi dal padano stretto per gli ascoltatori invece sotto il niente po'. Da fare, che niente fa, esatto. Ti vorrei anche segnalare che da oggi sono in vigore gli ecoreati. Sai che la legge è stata recentemente approvata, da oggi sono in vigore, te lo racconta bene Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore. E guarda, c'è anche quasi una buona notizia, c'è quasi poco meno di un miliardo per finire i cantieri nelle scuole. Mi sembra un dato importante, arrivando adesso, poi insomma con l'estate speriamo di avere le cose in ordine. Tu, Mauro, ieri hai parlato di Gerico, dicendo Gerico, ecco, Angelino è turbato Angelino, da tutto. Angelino. Senti, di all'amico tuo Meazza che fa tanto lo spiritoso, digli che Gerico lo conosco, ma digli che stia attento, che se il prossimo anno le trombe di Gerico suoneranno ancora, per l'Inter non c'è più speranza, andrà in Serie B. Eccolo lì, l'Inter in Serie B. Vabbè, ma è un amico tuo questo, più che no. No, beh, adesso lo è diventato sicuramente. Non raccolgo queste provocazioni, ecco. Invece ti voglio dire, sono molto sollevato perché ho scoperto che domenica finisce il campionato. Ottimo. Ecco, anche tu, secondo me, caro Alessandro, dovresti essere sollevato da questa circostanza. Campionato è finito, riprendiamo a sfotterci magari con il calciomercato, ammesso che. Intanto ti voglio dire, abbiamo ritrovato il piano Juncker, quello che doveva dare 300 miliardi per gli investimenti europei, è rispuntato, chissà, forse entro fine estate, scriviamo sul Sole, ma lo scopriremo solo vivendo, caro amico Alessandro, cari ascoltatori, buona domenica, ma soprattutto traffico! Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. Vabbè, quello facciamo, pensa che ci pagano anche, incredibile, per dire delle grandi chiacchiere. Allora, l'industria è la chiave della svolta, questo è il titolo del Sole 24 Ore, che si concentra ovviamente sull'intervento dell'assemblea di Confindustria che ieri si è tenuta all'Expo e in particolare la relazione del presidente Squinzi. Aumentare la competitività delle imprese, questa è la chiave di svolta per la ripresa, secondo il presidente di Confindustria, che ha invitato il governo a non smarrire la determinazione mostrata. A un certo punto Squinzi ha detto anche che esiste comunque quella che ha definito la manina antimpresa all'interno del governo, ogni tanto si esercita nelle pieghe dei provvedimenti, i reati ambientali, il nuovo falso in bilancio, nuove autorizzazioni varie, il canone sugli imbullonati, la TASI sull'invenduto, in generale una giurisprudenza studiata contro l'impresa. Dettaglia Nicoletta Picchio nell'articolo a pagina 2 del Sole. In Italia, ha aggiunto Squinzi, qualsiasi progetto nuovo porta con sé un comitato contrario. Questo non si risolve per legge, la semplificazione si costruisce nella cultura e nei comportamenti collettivi. Tra l'altro tutti i giornali fanno notare che il Presidente del Consiglio Renzi non era presente a Expo all'Assemblea di Confindustria, era invece a Melfi, nella fabbrica di Fiat Chrysler, con l'amministratore delegato Marchionne. Amelfi, 1000 nuovi assunti. Questo è l'annuncio di Marchionne, pagina 11 del Sole. Andrea Malan racconta e Renzi aggiunge: il lavoro si crea qui e non nei talk show. Tra l'altro Marchionne ha anche parlato appunto della presenza di Renzi e ha mandato un messaggio a Confindustria dicendo: apprezzo Squinzi come industriale, gli sono legato d'amicizia, ma Confindustria non mi manca. Marchionne tra l'altro ha rilanciato anche la polemica sul cosiddetto sindacato unico che già Renzi aveva detto. Ebbene, ha detto Marchionne, in America e in Germania c'è il sindacato unico, ma mi sembra che siano democrazie che funzionano perfettamente. Questo è il numero uno di Fiat Chrysler a Melfi ieri, dove c'era il Presidente del Consiglio. Mentre guardate il titolo della Gazzetta dello Sport, e lo faccio vedere anche se siamo già in diretta su Periscope, il che vuol dire che mancano 3 minuti, stiamo finendo. Il titolo della Gazzetta dello Sport è molto efficace perché riguarda ovviamente il terremoto FIFA, il terremoto Blatter. Abbiamo parlato di impresentabili in Italia e in politica. Impresentabile, questo è il titolo della Gazzetta, e con la foto di Blatter ovviamente, che oggi dovrebbe essere rieletto a capo della FIFA per il quinto mandato. Ma c'è una rivolta di tutte le federazioni, soprattutto europee. Platini, che è a capo dell'UEFA, cioè il calcio europeo, ha detto vattene via, proprio l'ha visto, ha incontrato Blatter, ha detto basta, vai via, ti imploro, non si può andare avanti così. Guardate qua il titolo del Corriere della Sera: ti imploro Platini, smettila e vattene via. Tra l'altro il Corriere racconta due cose del metodo Blatter davvero incredibili. Come diventare vicepresidente della FIFA, cioè del calcio mondiale, essendo presidente della federazione di Cayman, le isole Cayman, dove ci sono 8 squadre e 2 campi da calcio. È successo a Jeffrey Webb. Pensate che per coltivare in questa politica blatteriana, per cui un voto vale uno, quindi il voto della Federazione delle Cayman vale come il voto della Federazione del Brasile, cioè la patria del calcio. E allora Blatter andò addirittura nel 2009 in persona a inaugurare il centro sportivo di Gran Cayman. Come se in proporzione, scrive il Corriere, il Presidente della Repubblica celebrasse l'apertura di un tombino in una qualsiasi città italiana. Questa è la politica di Blatter. Mentre si racconta anche chi è il pentito che ha fatto partire tutto, è questo Chuck Blazer, un uomo che ha una barba che Saddam Hussein poco prima dell'impiccagione. Chuck Blazer, tutto con i capelli bianchi, si presentava da pentito con i microfoni nel portachiavi dell'FBI e quindi registrava tutte le... Perché? Perché anche lui era stato incastrato, era uno che si era fatto 2 case a Manhattan, una la teneva per sé e una per i suoi animali. Così, giuro, scrive il Corriere. Aveva casa a Miami, casa alle Bahamas, usava la carta di credito, ha speso 29 milioni di dollari in 7 anni, 29 milioni di dollari, al che l'FBI l'ha blindato e lui ha detto ok, collaboro con voi. Chiama lo stupido Chuck Blazer, ha incastrato tutta la FIFA, i vertici della FIFA. Vabbè, siamo quasi in chiusura? Sì, siamo in chiusura proprio. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. No, prima questa la devo dire, dai, rubo 20 secondi. C'è una pagina su Repubblica, non è questa, su basta compiti per le vacanze. Ma io dico basta a questa polemica. Mia figlia va a scuola con una cara amica cinese. Questa amica cinese, che è un anno più avanti in realtà, della mia amica, figlia della mia amica Jessica, cinese, va a scuola dal lunedì al venerdì in Italia e il sabato invece che giocare studia cinese tutto il giorno, capito? Perché i cinesi ci mangiano in testa, capito? Altro che andare a fare capriole al parco, si studia anche e si fanno le capriole al parco. Ma la carta costa, eccolo qua, l'articolo più inutile scovato sui giornali è del Giornale, Giuliana De Vivo. Ci sono persone che fanno le vacanze macabre, vanno nei luoghi di sciagura. C'è per esempio il tour della crisi economica greca. Il tour della crisi economica greca. Ma chi se ne frega? Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora parliamo del terribile incidente di mercoledì a Roma, in via Mattia Battistini e Boccea. La macchina in fuga da un controllo di polizia che travolge diverse persone e una donna filippina uccisa sul colpo, altri feriti gravi. Allora, a bordo di quella macchina c'erano sicuramente una 17enne, probabilmente altri due minorenni rom, bosniaci rom. Lo dico perché, come ho letto oggi in rassegna stampa, lo ribadisco ora, ciò che scrive Michele Serra su Repubblica nella sua rubrica La Maca. E Michele Serra non è una persona certo tacciabile di razzismo. Scrive Michele Serra: il modo migliore per aiutare i Salvini è fare come ha fatto ieri il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, che del tutto in buona fede ma inverosimilmente ha trattato come un trascurabile dettaglio l'essere rom, il ladro d'auto in fuga che ha ucciso una passante ferendone altri tre. Non è negando l'evidenza di una questione sociale annosa e importante come la difficile integrazione dei rom che si fanno passi avanti. Negare che parecchi rom delinquono per vivere e sono molto refrattari all'integrazione è sciocco e controproducente. Nessuna buona politica può nascere dal rifiuto della realtà. Oh, Michele Serra, Michele Serra. Erano rom quelli alla guida, sono ricercati. Come moltissimi pirati della strada che ogni anno ammazzano sulle nostre strade, sono invece italianissimi e non rom. Italiani, italiani, va detto. Però la tragedia ha rilanciato belle polemiche politiche, intanto sapete Salvini come la pensa. Che mesi di preavviso e poi sfratto esecutivo senza se senza ma migliaia di rom che vivono come tutte le altre persone nelle case se vogliono, altrimenti vanno da un'altra parte, poi le ruspe faranno il loro lavoro di pulizia. Anche le ha risposto Davide Casadio, che è presidente dell'associazione Sinti Italia. Sentite cosa ha detto la radio Cusano Campus dell'Università Niccolò Cusano. Hitler è morto, l'Italia vogliono risuscitarlo. Salvini sarebbe Hitler risorto, secondo lei? Non è che lui è risorto, ha risuscitato ancora lo spirito di Hitler in Italia, ecco. Salvini resuscita lo spirito di Hitler in Italia. Vabbè, saluto Diana Pavlovic, che è responsabile della Fondazione Rom Sinti Insieme. Buongiorno Pavlovic e benvenuta. Buongiorno. Allora, è giusto titolare in prima pagina, come fa il Messaggero, il padre del pirata rom mente, cioè mettere il fatto che sia rom? Ma questo capita da tanti anni in Italia, no? Quando un reato lo commette una persona di etnia rom o una persona straniera, un immigrato, si dà risalto a questo fatto. Il fatto che sia rom. Sì, questo succede, questo ormai, diciamo, noi l'abbiamo tante volte denunciato. Però ha sentito anche, voglio dire, Michele Serra non è una persona tacciabile di razzismo. Sa che un altro, Adriano Celentano, ha scritto sul suo blog: comincio a pensare a Salvini. Ma sì, questi fatti tragici dove le persone non normali, insomma, come me, prendono questo commento, quello che è successo e trovano il senso di, insomma, la tragedia colpisce. E dunque se tutta la stampa e tutta la politica ti propone il fatto che questo è successo perché l'ha commesso un rom, insomma, ci pensi un po', anche se prima non ti ha toccato. Però insomma quello che Serra scrive non è del tutto, diciamo, sbagliato, perché nessuno fa finta che nei campi rom ci sia deficiente Grazione o ci siano persone che vivono. Nessuno ha mai fatto finta, ha fatto finta la politica, ha fatto finta la polizia. Noi non abbiamo mai fatto finta che questo non esistesse. Le politiche serie non sono state fatte nei confronti dei rom. E dunque quello che è stato fatto fino ad ora, e mi dispiace che questo Serra non l'ha colto, insomma basterebbe leggere qualche piccola ricerca o capire, fare una piccola ricerca su quello che è successo negli ultimi 30 anni. Sì, di politiche se ne non sono state fatte. No, solo le politiche, cioè nel senso che sono state fatte le politiche che sono servite a ingrassare diciamo qualcuno, nel senso che Le cooperative che hanno lavorato qualcuno, non solo le cooperative, è un business, diciamo, come ha mostrato Mafia Capitale, un business nel quale ci sono tutti, meno che Rom. Però le chiedo e questo, dall'altra parte, strumentalizzazione politica. Se tu hai tu ogni campagna elettorale in questo paese è fatta su questo argomento, nessuno poi ha il coraggio di fare delle politiche serie strutturali. No, siccome voglio presentare un ospite che tra poco lo presento, di Roma, del Comitato Aurelio, che insomma ieri ha anche organizzato una fiaccolata, però le chiedo questo intanto sulla questione politica. Pavlovic, con Salvini vi siete anche scontrati spesso, lei lo paragonerebbe a Hitler come ha fatto questo rappresentante Casadio? Ma io spero di non poter paragonare nessuno in un futuro prossimo a Hitler. Però insomma diciamo che incitazione all'odio, la propaganda che fa è molto simile a quella che è successa in Germania negli anni 30. Cioè molto simile a Hitler, insomma, la propaganda di Salvini. La propaganda è quella, diciamo, ma scusi, cioè io ieri ho depositato una querela contro Bonanno. Sì, no? Della Lega. Insomma, dire la propaganda è simile a quella della Germania nazista vuol dire che è Salvini. Quando uno arriva in televisione a chiamare me e altre migliaia e migliaia di persone, cittadini di un'etnia, feccia della società. E lei l'ha querelato. E quello è il principio, sì, però quello è feccia della società, il principio secondo il quale insomma i nazisti hanno sterminato 500.000 di persone. E secondo lei anche Salvini porta avanti questo tipo di atteggiamento? Istiga l'odio razziale, dunque ognuno adesso ora si può permettere prima di dire qualsiasi cosa, poi non so cosa si permetteranno a fare ancora. Io le presento Alessandro Lai, buongiorno Alessandro Lai. Buongiorno. Comitato Aurelio, il quartiere Aurelio Boccea, ovviamente immagino ancora sotto shock per questa tragedia che è avvenuta. Perché una fiaccolata dal titolo, credo, Basta Campi Rom? Questo era il titolo simbolico della fiaccolata di ieri? No, quello non era il titolo. C'era lo slogan, era lo slogan. Sì, c'era uno striscione, Basta Campi Rom, perché... Noi ci troviamo, diciamo, circondati da campi abusivi, non curati, ci abbiamo gente che c'entra dentro casa, ci abbiamo gente che fa per strada quello che ha fatto l'altro giorno, purtroppo, in metropolitana vediamo tutti quello che fanno. Adesso noi, come persone, non siamo intolleranti, soltanto che stiamo perdendo la pazienza, quella è la verità. Adesso non c'entra niente il discorso di Hitler, di qua c'è un problema serio. Queste persone purtroppo fanno queste cose, non è una cosa che mi sto inventando io, non è una cosa che si stanno inventando. Ma guardi, anche di Jana Pavlovic ci dice noi stessi della comunità non neghiamo che nei campi Rom esista una certa percentuale di queste problematiche, insomma. Però lei, mi interessa il suo punto di vista perché voi la vivete quotidianamente. Lei ci tiene a dire non è razzismo. Certo, io ho letto i reportage di vari cittadini, anche cittadini, leggevo su Repubblica, il Messaggero, il Corriere, che hanno cambiato un po' idea, come dire, lei ci ha detto stiamo perdendo la pazienza, questo dove porta però? Questo non lo so dove porterà questa cosa, perché francamente la gente esasperata dopo si trova a commettere delle cose e a fare delle cose che non in vita sua non avrebbe mai pensato di poter fare, perché quella è la verità. Quando una persona si vede attaccata negli affetti, nelle sicurezze della vita, queste cose possono succedere. Però lei al di là dei dati della polizia, si sentirebbe di associare all'etnia rom una maggiore percentuale di propensione a, che ne so, al furto, al crimine? Oppure lei dice l'insicurezza si può percepire da parte di chiunque, anche di italiani, anche di connazionali, anche di altri stranieri, anche di chiunque? Ma che ci sia un'alta percentuale di propensione al crimine, quello è una cosa indubbia, perché l'abbiamo, cioè lo sappiamo tutti, penso che chi nega questo, insomma, non so, fa un po' un certo discorso anche di ipocrisia. Però queste persone vengono pure lasciate in una certa maniera, diciamo, al loro destino, vengono loro si sentono in diritto e in dovere di poter far tutto, perché non c'è una certezza di pena, non c'è un'impunità grandissima. Perciò loro dicono: io posso fare questo, tanto non mi succede niente. Questo è quello che ci racconta Alessandro Lai, che fa parte di un quartiere, vive in un quartiere dove la vicinanza è con campi rom è concreta e quotidiana. Pavlovic, la questione alla quale non si riesce mai a rispondere, Salvini ovviamente la mette in maniera brutale, io la metto in maniera molto più tranquilla, è perché questa situazione dei campi c'è solo con i rom, cioè perché, a parte che moltissimi rom sono italiani, l'abbiamo detto, e moltissimi vivono in case regolari, moltissimi, però ci sono i campi rom, perché non si riesce a superare e che vivano come tutti, si iscrivano alle liste per avere una casa se ne hanno diritto, comprino una casa come tutti facendo i mutui, cioè perché vivono così molti di loro ancora? Io devo dire prima, insomma, una cosa, è da anni che chiediamo e proponiamo, non chiediamo, noi proponiamo nelle politiche, diciamo, di inclusione, per in modo da superare i campi. Da anni si stanziano dei milioni di euro per mantenere i campi. Sì. Per dirvi, se 60 milioni di euro, che dice Salvini, di Maroni, quelli che ha stanziato Maroni, fossero stati spesi per inclusione, vera inclusione dei rom, i campi non ci sarebbero più. No, mi scusi, non esistono politiche, che ne so, per superare i campi dei calabresi, dei piemontesi, degli eritrei, solo i campi, no, dei rom. Ma guardate che nei primi anni 80 furono le regioni italiane a istituire una legge regionale per creare dei campi rom. Ma perché allora forse erano veramente nomadi, si spostavano. Ma non erano nomadi negli anni 80 e negli anni 90, quelli che arrivavano dagli stati dell'ex Jugoslavia, per dire, che scappavano dalla guerra, non erano nomadi, ma li misero nei campi. Non ci furono altre soluzioni per loro. E adesso noi siamo la terza generazione delle persone che è nata, cresciuta in quei campi lì. Allora, se lei fa recinta un terreno di 1000 metri quadri e ci mette 1000 persone... Sì. E li chiude lì per 30 anni. Ma non sono obbligati a star lì, però. Cioè, se si dicesse da domani questo campo non c'è più, cercate un lavoro e cercate una casa, come tutti, cioè in maniera... No, ma è un circolo... Quando, cioè, perché uno non sono obbligati a stare lì dentro, no? Come lei non è obbligata a vivere, no, in un posto. No, possono uscire e andare a fare una barca. Cioè, no, dico, non sono obbligati a vivere, si trovino un lavoro e si compri una casa. Allora io invito lei e anche il ragazzo, che mi sembra che lui abbia proprio ragione, però non se la deve prendere con i rom, se la deve prendere con chi ha gestito la sua città. E deve chiedere che queste politiche vengano fatte seriamente, perché le persone non possono sparire. Sì. No? Allora, io invito a lei e a Alessandro di andare a fare semplicemente una casa, si faccia la carta d'identità con indirizzo di un campo nomadi, con la residenza, e vada a cercare il lavoro. Chi è che dà un lavoro a uno così? Vada a cercare un lavoro, vada a affittare una casa. Sì. Vabbè, no, certo, questa è anche una... un bambino come si vestono i nostri bambini, lo metta su quel pulmino con i quali i bambini rom vanno a scuola per un'ora, e ci vengono subito emarginati, e poi glielo chieda come è stato trattato. Questo è effettivamente un problema. Alessandro Lai, lei ce l'ha più con, o voi, insomma, mi dica ovviamente il suo parere personale, ce l'ha più con i rom dei campi oppure con la politica che non ha risolto mai questa problematica? Mi dica. Io ce l'ho, non so con chi ce l'ho un po' con tutti. La politica per un verso e Roma per un altro verso. Adesso che la signora mi venga a dire che io mi devo fare una carta d'identità con l'indirizzo Roma e mi devo andare a trovare un lavoro, io gli faccio presente alla signora che io faccio un lavoro, io lavoro, sono un artigiano, sono una persona che vado ogni mattina a cercarmi il lavoro, parecchi giorni sono a casa, non c'ho niente da fare, ho grandi problemi perché adesso con la crisi ci sono grossi problemi. Però Pavlovic ci faceva notare, cioè che chi è che darebbe lavoro a un rom? Ecco, questo vuol dire, cioè, nessuno, se uno si presenta dicendo vabbè dammi la carta dove vivi, campo nomadi, nessuno gli darebbe un lavoro. Ma mi sembra che non c'hanno nemmeno la voglia di andare a trovare il lavoro, perché chi vuole trovare il lavoro lo trova. Sono venuti rumeni, l'hanno trovato, sono venuti i polacchi, l'hanno trovato. Bisogna cercarlo il lavoro, non bisogna aspettare che qualcuno ti suoni a casa, perché a me non mi viene a suonare nessuno a casa e mi porta al lavoro. E nonostante io ogni giorno combatto con 100.000 problemi, ma non vado alla metropolitana a borseggiare la gente o qualche cosa del genere. Ma teniamo presente che quella persona aveva 20 macchine intestate, il padre di quel signore aveva 20 macchine intestate, ha messo sotto 9 persone e ieri stava al televisore a farsi intervistare. Vabbè, ma quello dai, parliamoci chiaro, sentiamo anche l'audio. Secondo me anche secondo me copriva davvero il figlio, cioè la polizia non crede al fatto che il padre che si è intestato, sono stato io, sentite che ha detto, sono stato io a investire tutti. Allora io andavo a prendere, ero ubriaco da morire. Tu eri ubriaco? Ubriaco. Ho visto il chiave della macchina qua, era una Lancia, ha preso la macchina della Lancia, dentro stavano. E mi ha messo, sono andato a prendere da bere qualcosa. Vabbè, così iniziava, è un video sulla stampa di questo padre, cioè dice, lei crede davvero che sia questa persona Alessandro Lai? Secondo me copriva davvero il figlio, infatti no, la polizia, ma io non ci credo, la polizia infatti l'ha lasciato andare dicendo non è vero. Ma io non, ma se io avessi fatto una cosa tempi addietro, quando ancora era vivo mio padre, perché io ho 51 anni, voglio specificarlo, non sono un ragazzo come mi ha definito la signora, mio padre sarebbe andato ai carabinieri e avrebbe detto: mio figlio è un delinquente, portatelo dentro, perché quello avrebbe fatto mio padre. Certo. Tutto è quello il discorso. No, è questo. Il discorso è quello. Vabbè, io allora la questione è questa, io mi devo fermare, c'è la pubblicità. Intanto vi ringrazio Alessandro Lai, voglio ricordare il comitato Aurelio del quartiere Aurelio Boccea, che è stato tra i promotori di questa fiaccolata con lo slogan Basta Campi Rom. Ringrazio anche Diana Pavlovic, che è spesso il nostro ospite a parlare di queste tematiche, lei è responsabile della fondazione Rom Sinti Insieme. Dal punto di vista della cronaca, le due persone minorenni che erano a bordo insieme alla ragazza minorenne che invece è stata fermata sono ancora in fuga e li stanno cercando, ovviamente la mobile di Roma, un po' nei vari campi rom, non solo di Roma, forse del Lazio, forse anche sono fuggiti, sicuramente avranno delle coperture, ecco, questo è abbastanza ovvio, perché il padre invece di dire sono stato io, secondo me mentendo, potrebbe dirci dove sta il figlio, ecco, banalmente. Infatti quando gli hanno chiesto dov'è suo figlio, ma il figlio, dai, su, andiamo in pubblicità. Eccoci qua, le 8:40 minuti, e sapete che io qua tengo da 108 settimane di questa legislatura il conto dell'abolizione delle province mancate. È la 108esima o 108ava settimana decisiva che si chiude oggi per l'abolizione delle province. Ma quello che è successo sulle province ieri, raccontato dalla stampa da Gianni Martini, mi ha colpito davvero. Allora, saluto il sindaco di Cuneo, che è anche presidente della provincia di Cuneo nella nuova formula, Federico Borgna. Buongiorno sindaco e presidente. Eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io provo a raccontarla così, come la racconta la stampa. Il presidente della provincia Borgna, con la riforma Madia, scopre che il ruolo di segretario provinciale può essere fatto da un dirigente a costo zero, e quindi così fate, sospendete il concorso per avere il segretario provinciale, lei nomina un dirigente, due consulenti, tutti a titolo gratuito, insomma un bel risparmio. Finalmente, dice, le nuove province, fate un bel risparmio, risolvete la questione del segretario provinciale così. Le arriva una lettera, caro sindaco, in cui c'è scritto: che dall'8 giugno entra in servizio la dottoressa Matrona Stellato, segretario generale a carico della provincia. Cioè dal ministero, dalla prefettura, diciamo, dal ministero le dicono: ah, avete fatto, avete partorito questa bella idea di risparmiare sul segretario provinciale, ve ne arriva uno da Latina e lo dovete pagare 180.000 euro. Questo è lo stipendio del segretario generale. Il costo complessivo di un segretario generale è all'incirca 180-200.000 euro l'anno. Sindaco, ma si ribelli? È certo che mi ribello, ma perché, cioè, è la cosa che mi fa veramente, come ha scritto Gianni Martini, perdere la flemma sabauda, è che allora la legge Madia non è ancora legge dello Stato, è vero, è stata approvata al Senato, però insomma è in via di approvazione alla Camera. Insomma, mi dicono che entro giugno, luglio dovrebbe essere approvata. E vabbè, sì, sì. I tempi della politica sono in via di, diciamo, di trasformazione o di estinzione o di superamento. I segretari provinciali sono in via di diciamo di superamento col dirigente apicale. La legge di stabilità taglia in modo pesantissimo le risorse alle province, perché noi stiamo parlando. Cioè, è a rischio l'esistenza della provincia anche nella nuova versione. C'è la provincia, chiamiamola in versione mini, quella che si occupa solo di strade, scuole. Lei ha messo tutto insieme, ha detto risparmio. Risparmio o due, non un segretario generale reggente che è la dottoressa Mondino, bravissima, disponibile, ma oltre a lei ho due segretari generali in pensione che gratis ci danno una mano ad attraversare questo momento, e cosa succede? Si nominano d'ufficio, d'imperio, e ci impongono un segretario generale. Che costa 180.000 euro. Esatto, e noi qui 180.000 euro non li vogliamo pagare, perché non abbiamo i soldi per tappare le buche sulle strade. Ma cosa fa? Lei può opporsi a questa nomina d'ufficio? Stamattina abbiamo la prima riunione, adesso vediamo. Io credo che faremo ricorso. Comunque in Italia è così, bisogna fare ricorso. Noi siamo dalla sua parte. Cioè, facciamo un'armata. Ma io spero che ci sia qualcuno al governo che ha un po' di buon senso e faccia un provvedimento d'urgenza a sospendere sta roba qua. Ma tra l'altro leggo sui giornali, e le diceva sempre, appunto, scriveva La Stampa, che questa dirigente che arriverà da Latina nel 2013 è stata accusata di scarsa presenza in ufficio, reiterato rifiuto di timbrare il cartellino, abbandono delle sedute di giunta. Cioè, adesso, per carità, non voleva fare una battaglia personale contro questo segretario, però... Ma no, per l'amor di Dio. Cioè, io parto dal presupposto che questa dottoressa è un'ottima persona, una brava professionista. Quelli sono stati degli infortuni e delle incomprensioni con l'amministrazione. Per me può essere la miglior persona del mondo, ma in questo momento è un non senso questa operazione, è uno spregio ai territori, uno spregio alle province. Ma voglio dire, se Renzi ci ascolta, faccio un appello a Renzi, faccio un appello al governo, ma voglio dire, facciamo il superamento delle province, che non è abolizione perché esistono, per risparmiare. Qui c'è un presidente che ha messo in pratica la cosa, risparmia, arriva a costo zero, gli arriva la lettera dalla prefettura: ah, non avete il segretario provinciale, lo portiamo noi da Latina e dovete pagare 180.000 euro. Ma io non lo so, Confido davvero nel buon senso di chi ci governa. Insomma, hanno una settimana di tempo per porre rimedio a questo scempio. Io confido davvero che lo faccia. Ma chi è l'interlocutore a livello governativo? Ma ieri abbiamo fatto una manifestazione che non era organizzata per questa cosa qui, ma questa nomina è caduta, manco farla apposta, con tutti, c'erano 200 sindaci della provincia di Cuneo, parlamentari e rappresentanti del governo del territorio, per spiegare, cercare di comunicare col governo la difficoltà che stiamo attraversando e il rischio che si perdano pezzi interi del paese, perché noi abbiamo veramente dei paesi isolati. Noi abbiamo Elva, un comune in Alta Valmaira, che ha due strade per arrivarci, una strada sta franando, l'altra è già franata. Quindi servirebbero i soldi per fare queste cose qui. Liberare la strada franata dalla frana costa 50.000 euro. Questi 50.000 euro non li abbiamo, sono tre mesi di stipendio del segretario generale che ci vogliono imporre. E questa cosa noi ci ribelliamo. Ribellatevi, sindaco, noi siamo dalla vostra parte, e se ci permette la richiameremo per cercare di capire se questa battaglia andrà in porto. Nulla contro la persona del segretario segretario che è stato nominato è stato imposto, ma è il principio, è il principio, sì, che ma è insopportabile. Anche contro la figura dei segretari comunali, no, dei segretari generali, che sono figure preziose, ma noi in questo momento ce l'abbiamo, non abbiamo bisogno. Ce l'avete e a costo zero, esatto. Perché dovete prendervelo da Latina a 180.000 euro? Mi sembra un ragionamento talmente di buon senso. E speriamo che qualcuno ascolti, grazie al sindaco di Cuneo, nonché presidente della provincia, ma come abbiamo detto varie volte, un solo stipendio da sindaco, Federico Borgna, che è stato con noi al momento del traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... 48 minuti, allora in tanti ci hanno chiamato all'800240024, il nostro numero verde, gratuito per intervenire, immagino, sul tema Rom. Stefano da Roma, è su questo? Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ci sente, sì, senta, dica. Volevo insomma semplicemente evidenziare il fatto che purtroppo nella gestione dei campi Rom gli interessi economici di alcune organizzazioni vanno ben oltre l'interesse di chi vive dentro quei campi. Ma non si sente molto bene, Stefano, dove va? Si è allontanato? Sì. Ecco, cioè, adesso... con chi ce l'ha? Sì, adesso sì, con chi ce l'ha? Sì, ci sono delle queste associazioni, queste cooperative, abbiamo visto anche ultimamente delle trasmissioni in televisione che sfruttano queste sovvenzioni, almeno a Roma, da parte del comune per delle gestioni. È un affare, l'abbiamo detto, la gestione dei campi Rom diventano in alcuni casi affari su cui lucrare. Un affare, che poi i Rom ce ne sono ben pochi, perché mi dicevano persone che lavorano che di veri sinti ne sono rimasti il 20-30%, l'altra è delinquenza comune che sta lì dentro e trova rifugio. Non sono campi controllati. Vabbè, ma e quindi? Cioè lei fotografa questa situazione e quindi? È una grande situazione di illegalità, quindi bisogna metterci le mani seriamente. Cioè lei dice stroncando questo tipo di illegalità risolve un po' il problema, non è tanto vedere... Garantire a chi ne ha diritto, come si diceva prima, un minimo di dignità, perché io ne ricordo qualche anno fa a Roma c'era un campo vicino all'ex gasdotto che è stato sfrattato e addirittura lì il quartiere si è ribellato perché i bambini erano integrati, andavano a scuola e via dicendo. Però Stefano, cioè, qua la legalità si deve stroncare per chi fa i reati, però questa questione di politica inclusiva, io ripeto, perché c'è solo questo problema? È una domanda alla quale nessuno risponde. Perché questo problema è soprattutto con la questione Rom, l'etnia Rom? E questa è la questione. Comunque Mario da Cosenza che ci dice? Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma proprio a rafforzare la sua tesi, io posso portare la testimonianza di quello che viviamo qui su Cosenza, dove anche a smentire la sua ospite. Abbiamo cercato di integrare, ovviamente l'amministrazione comunale ha cercato di integrare i Rom costruendogli delle case, levandoli dalle baracche, eccetera, eccetera, ma il problema non è stato assolutamente risolto. Cioè? E nonostante io non sia un elettore assolutamente della Lega, però comincio a pensare che effettivamente, insomma, è così, un problema culturale etnico esiste. Purtroppo nell'incidente sarebbe quando si dice Filippina, quando si dice problema etnico, però è un po' rischioso, cioè c'è un problema, diciamo, con i Rom. Etnico forse non è proprio il termine esatto, ma culturale me lo lasci passare, perché comunque le ripeto, il filippino che è stato coinvolto nell'incidente, la signora che purtroppo è morta, io di filippini a rubare in casa o a fare disastri sinceramente non ne conosco, invece di Rom. Va bene, grazie Mario. Andrea a Napoli da Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io volevo fare presente quello che si è discusso all'inizio, evidenziare che a volte si è portati a facili generalizzazioni. Allora, ora è avvenuto un incidente, si parla dei Rom, ma voglio dire, non è così, perché anche molti italiani hanno fatto delle... L'abbiamo detto. Forse non chiedo scusa. No, questa è stata l'impostazione, però ha sentito cosa ha scritto Michele Serra su Repubblica, dice è sbagliato far finta che non siano Rom, sembra quasi di voler non far finta che non ci sia un problema di integrazione. Sicuramente l'integrazione, infatti io vado oltre, ma non dico Rom, io dico è vero che siamo in una Unione Europea, c'è cioè una libera circolazione delle persone, però voglio dire, rivedere questi trattati della libera circolazione delle persone, cioè tu cittadino, fossi polacco, francese, tedesco. Non voglio neanche parlare di cittadini rumeni, se no sembra che ce l'ho con i rumeni o i bulgari. Dico, venite in Italia, benissimo, siete benvenuti, avete una dimora, avete un minimo reddito per sostenervi. Dove andate ad abitare? In che intenzioni avete? Farete un lavoro qua? No, e allora non potete dormire in una roulotte e utilizzare i bambini, chiedo scusa, sì, per fare le elemosine. È chiara la sua posizione. Donna, che se anche tu una bambina nella metropolitana di Napoli ce le vediamo ogni giorno. Il discorso però, Claudio, è giusto, ma è una questione di lotta europea, insomma, che uno dovrebbe fare. Però lei lo pone in un discorso un po' più alto di anche battaglie a livello europeo. Vi ringrazio tutti e vi ricordo che noi abbiamo una segreteria telefonica allo 02 4652 4492. Potete chiamarci, potete dire quello che volete, noi vi mandiamo in onda. Ragazzi, siete spaziali. Togliamo i vitalizi, togliamo questa porcata a tutti quei politici che stanno lì a mangiare e a essere ladri, eppure si arrabbiano quando lì si smaschera tutta l'ambaradam. Filastrocca elettorale. L'innominato disse all'impresentabile che l'uomo invisibile lo voterà. Penoso, hai capito? Scemo, ma col cuore te lo dico. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e portarli giù il campo a ralo terreno. Caso FIFA, interviene l'FBI e arresta 7 dei vertici dell'organizzazione. Più Allegri, accusato di truffa aggravata allo schema calcio. Dai! Ragazzi, da quando ho preso in giro Allegri il suo schema quando era al Milan, ormai l'ultimo anno faceva solo questo schema. Dai, questo era lo schema Allegri. Vi ho preso per il culo voi della Juve a dire avete preso Allegri, dai, la sto pagando abbastanza. Confidiamo in Lionel Messi, ecco, diciamo così. Oppure Suarez che morsichi, non so, il polpaccio di Chiellini, quello l'ha già fatto. Mamma mia, ragazzi. Va bene, dai, siamo con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Un grosso in bocca al lupo, anzi un augurio immenso a tutti i tifosi della Juve per il 6 giugno, augurissime. Siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta, ogni pagina nuova sai. Quattro mattino.